Come te non c'è nessuno, tu sei l'unico al mondo. Nei tuoi occhi profondi io vedo tanta tristezza. Come te non c'è nessuno, così timido e solo. E se hai paura del mondo, rimani accanto a me. Amore, dimmi cosa mai posso fare per te. I pensieri dividi con me, io ti voglio aiutare. Amore, amore, come te non c'è nessuno, è per questo che t'amo. Ed in punta di piedi entrerò nei tuoi sogni segreti. Come te non c'è nessuno, così timido e solo. Se hai paura del mondo, rimani accanto a me. Amore, dimmi cosa mai posso fare per te. I pensieri non c'è nessuno, è per questo che t'amo. Ed in punta di piedi entrerò nei tuoi sogni segreti. Come te non c'è nessuno.